Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film Quo Vadis Aida di Jasmila Zvanic al cinema da giovedì 30 settembre 2021. Ben trovato. Ben trovati a voi. Come lo presenteresti in breve? Io detesto abbastanza l'etichetta di film importante, però non riesco a trovare un'etichetta migliore per il film. È veramente un film importante perché ci costringe a ricordare uno degli avvenimenti chiave della storia europea recente, recentissima, è accaduto nel 1995, che in qualche modo ha segnato la vita e la storia europea da quel momento. Parlo degli avvenimenti di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 95, quando l'esercito serbo assedia la città e l'ONU si trova nella difficile situazione di dover controllare appunto l'avanzata dell'esercito nemico e di proteggere la popolazione locale. Non ce la farà, commetterà degli errori fatali e la fine della storia purtroppo è nota, ma Jasmila Zvanic riesce a trovare una chiave cinematografica enormemente umana ed emozionante per ripercorrere la storia e raccontarci una storia esemplare che vale per tutte le mille storie delle persone che in quell'evento hanno perso la vita. Che cosa vi ha convinto maggiormente di quest'opera? La sua potenza emotiva, è un film che ti risucchia letteralmente dentro lo schermo, è un film che ha come protagonista una donna che è un'interprete per le Nazioni Unite, ma allo stesso tempo è una moglie, è una madre che si trova nella posizione di voler salvare il suo popolo, ma anche di voler salvare la sua famiglia e se stessa. E quindi percorrere il film al fianco di questa donna permette un accesso emotivo alle vicende realmente accadute, che è in qualche modo irresistibile da un punto di vista proprio del coinvolgimento emotivo e cinematografico. C'è una tensione costante dal punto di vista, ecco, della protagonista, umano e poi anche politico, perché l'ONU è bloccata da contrasti, da veti, e quindi praticamente lascia alla balia dei carnefici la popolazione civile. Sì, è un film che trovo molto serio e molto coraggioso per la maniera in cui racconta questa parte di storia, perché ovviamente la regista è bosniaca e racconta la sofferenza del suo popolo. Gli invasori sono i serbi e non vengono certo tratteggiati in maniera gentile, ma il film punta il dito in maniera molto chiara sulle responsabilità dell'ONU, sulle responsabilità europee, di chi doveva essere lì per garantire la sicurezza della popolazione e non l'ha fatto e non c'è riuscito. C'è anche lo spazio per un breve finale in cui viene illustrata una convivenza difficile e memore. Sì, il finale del film, che io personalmente trovo bellissimo, è problematico, aperto a molte letture. Sì, c'è una convivenza che è la convivenza di serbi, di bosniaci e di altre etnie che oggi vivono a Srebrenica, che oggi vivono in Bosnia. Dopo la guerra che cosa è rimasto? E nel finale possiamo leggere questa convivenza come una nuova fonte di disagio o forse come una speranza di un mondo in cui si riesce a superare le diffidenze del passato e si cerca assieme di ricostruire qualcosa di nuovo. Di questa regia cos'altro sappiamo del lavoro precedente? Jasmine Radvanich è una regista che con la sua opera prima, Il segreto di Esma, vinse l'Orso d'Oro a Berlino, quindi si fece notare fin dall'inizio. Da lì seguirono altri film belli e importanti, spesso anche distribuiti in Italia, ma Il Cuova di Saida è probabilmente il suo film più bello e più importante. È un film che è stato presentato in concorso a Venezia, che ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior film internazionale ed è stata nominata anche a due BAFTA, gli Oscar del cinema britannico. Non solo come film straniero ma anche come miglior regista. È veramente un film che parla di un pezzo di storia locale, europea, ma che si apre con la forza della sua potenza emotiva a parlare veramente a tutto il pubblico di tutto il mondo. All'estero che distribuzioni ha avuto? Il film è stato venduto in tutto il mondo a distributori, chiamiamoli di fascia alta, distributori impegnati sul fronte della qualità. È stato distribuito negli Stati Uniti da una label della stessa società che ha distribuito Parasite, quindi stiamo parlando di persone che lavorano in prima linea sul mercato della qualità e che possono fare la differenza per queste piccole gemme d'autore europee. La risposta del pubblico? È stata calorosissima. Una cosa che mi ha colpito molto è che il film ha ovviamente viaggiato tantissimo in tutto il mondo, in tantissimi festival. È un film drammatico che racconta una storia tragica, ma la cosa interessante è che in ogni festival in cui è stato presentato il premio che ha sempre vinto è il premio del pubblico. Questo ci dice tanto, cioè non è un film dal quale si esce scoraggiati, depressi, è un film che lascia tanto da un punto di vista emotivo, che arricchisce tanto, e l'enorme lista di premi del pubblico vinti nella sua carriera sta a dimostrare proprio questa cosa. In quante sale? Esce in 39 bellissime sale, con la speranza di poterle aumentare nelle settimane prossime successive. Il film Quo Vadis Saida di Jasmila Zbanic al cinema da giovedì 30 settembre 2021. Saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che distribuisce insieme alla Lucky Red. A presto! Grazie a voi e buona visione. Con Francesco Notarangelo di Mescalito Film, che distribuisce il documentario The Cave di Feras Fayyad al cinema da lunedì 4 ottobre 2021. Ben trovato. Sì, salve, buongiorno a tutti, ciao Federico. Lo presenti in breve? Sì, assolutamente. Allora, è un'opera di Feras Fayyad, regista di Last Man in Aleppo, e racconta la storia successa durante la guerra in Siria, quando un'infermiera ha creato un ospedale sotterraneo. Quindi uno sguardo spietato e abbastanza forte su quanto sta succedendo ed è successo appunto in Siria. Ed è una storia disarmante che racconta le crudeltà e anche la stupidità di ogni singola guerra che succede, anche perché poi è uno strappo alla cultura e ai valori siriani che rischiamo di perdere. Ovviamente, perché tratta appunto di quante morti di bambini ci sono state e ci saranno purtroppo. Quindi abbiamo deciso di portarlo e lo porteremo da lunedì, due o tre giorni come evento nelle maggiori città d'Italia. A tal proposito ci tengo a dire che ci siamo organizzati e stiamo organizzando delle proiezioni evento con enti come Amnesty International e Medici Senza Frontiere, appunto perché vorremmo cercare di sensibilizzare per quanto più possibile il pubblico. Dove lo avevate intercettato il documentario? Grazie a National Geographic, ad una casa di produzione con la quale spesso collaboriamo. Ci avevano parlato appunto del regista Feras Fayyad, che era stato candidato all'Oscar, per cui abbiamo ritenuto, sia per il tema trattato, sia per darci, come dire, lustro, che fosse il caso di portare un'opera del genere in Italia. Quindi fondamentalmente ci è arrivata una newsletter in cui appunto ci veniva mostrato il trailer e il tema trattato e abbiamo pensato che si potesse fare un lavoro molto radicato e molto in profondità, cosa che ci auguriamo di riuscire a fare. Tra l'altro la figura di questa piccola eroina combatte non solo contro la guerra ma anche contro i retaggi patriarcali, perché alcuni uomini non vedevano di buon occhio il fatto che fosse una dottoressa a prestare soccorso ai civili. Assolutamente, infatti c'è pure questa critica, poiché la responsabile dell'ospedale non è altro che una dottoressa e c'è questa vecchia concezione per cui la donna non gli viene riconosciuto il giusto valore, soprattutto in paesi come la Siria. anche per quello che stiamo vivendo ora in Afghanistan, per cui abbiamo ritenuto appunto che potesse essere urgente e importante riuscire a mostrare un'opera che andasse anche contro determinati valori. E quindi volevamo anche mostrare l'arretratezza culturale che c'è e sussiste. Che circuitazione ha avuto all'estero? È stato nei maggiori paesi europei, è stato in Francia, in Spagna, non lo so se in America, ma penso di sì, e poi è già stato fatto una volta su National Geographic, e poi ci auguriamo appunto che possa raggiungere quante più sale, città in Italia. Sull'estero posso affermare con assoluta certezza Francia e Spagna, probabilmente anche la Germania e l'Inghilterra, ma di questo dovrei guardare i vari documenti che ho. In quante sale sarà? Allora, al momento siamo in circa 15 sale, speriamo per la prossima settimana, per le prossime due settimane di poterle aumentare per arrivare ad una cinquantina, sessantina. Ci sono tutte le difficoltà legate al Covid, per cui trovare sale al momento, nonostante il valore dell'opera, è abbastanza difficile, ma non demordiamo assolutamente. Quindi speriamo di riuscire a raggiungere un minimo di 70 sale e fare questi 2-3 giorni in collaborazione con Amnesty International o con Medici Senza Frontiere. Il regista è stato anche presente nella circuitazione del suo documentario? Sì, assolutamente, anzi è il nostro grosso rammarico. Tra 10-12 giorni sarà presente al Festival dei Diritti Umani in Svizzera e volevamo organizzare qualcosa con lui, però purtroppo è una persona un po' difficile da muovere, per cui dovevamo appoggiargli altre due persone, non ce l'abbiamo fatta e ci dispiace immensamente, perché volevamo fare ad esempio a Roma una proiezione con lui in sala e con Amnesty International, ma tutto ciò purtroppo non è stato possibile. Per cui dove c'è stata la possibilità lui ha partecipato ben volentieri, appunto come succederà in Svizzera tra due settimane. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere di più rispetto anche alle sale? Ma certo, assolutamente. Ovviamente seguire il nostro Facebook, che è Mescalito Film, poi seguire il nostro sito che aggiorniamo costantemente con le nuove uscite. E poi, vabbè, MyMovies ovviamente, perché è il sito che si aggiorna automaticamente ogni lunedì e ti dice ogni giorno le sale precise dove il film si trova. Il documentario The Cave di Feras Fayyad al cinema da lunedì 4 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Notarangelo di Mescalito Film che lo distribuisce. A voi. A presto. Grazie, grazie mille. Arrivederci, buona giornata a tutti. Martin Peralta di Exit Media Distribuzione sul documentario Piazzolla, la rivoluzione del tango di Daniel Rosenfeld al cinema da venerdì 8 settembre 2021. Iris, ben trovata. Ciao ciao a tutti gli ascoltatori. Ce lo descrivi questo lavoro? Il film Piazzolla la rivoluzione del tango, che come Exit Media portiamo in Italia, questo lavoro che ha già fatto un grande circuito internazionale, è stato già distribuito in tanti paesi, in HBO Latin America Latina, eccetera, e in occasione proprio del centenario della nascita del grande Astor Piazzolla presentiamo questo film che successivamente appena si vedrà nelle sale cinematografiche. Chiaramente si tratta di un ritratto intimo su Astor Piazzolla, sull'archivio inedito che è uscito dalla mano del suo figlio, che è anche coprotagonista del film, e da lì vediamo insomma un personaggio umano con tutte le sue contraddizioni, grande musicista e essere umano. Ecco, questo è un po' il bilancio del film. Cosa ti ha colpito del personaggio? E chiaramente, sicuramente, poi senza svelare troppo, come dicevo, è un personaggio di grandi contraddizioni, no? Nella sua vita privata, nel rapporto con i figli o con la moglie, eccetera, no? Questo non è, diciamo, l'argomento del film, ma come Piazzolla, che era sicuramente, così sì, nel documentario, un vulcano creativo, una persona che non poteva star ferma, che doveva sempre creare, che l'ha fatto contro tutti, perché fino a che non è stato riconosciuto, soprattutto in patria, in Argentina, è passato parecchio tempo. E da Piazzolla è fatto in questo modo, anche ha deciso di non mollare e continuare a fare, a creare musica, a comporre. Quindi da lì sicuramente questo è l'aspetto più affascinante che viene appunto fuori, come dicevo, grazie a tutto questo archivio bellissimo, ricchissimo, che esce dalla famiglia, dal figlio, che è quasi tutto da lì, ma anche della ex moglie, anche insomma materiale, un inedito molto bello. proprio per questa sua rivoluzione del tango all'inizio fu molto criticato dai puristi del tango. Lo definirono addirittura comunista. Sì, sì, infatti questo è un po', no, sicuramente è successo nella storia della musica, qua per restare in tema, insomma, ha tante genialità che magari non sono state capite nel momento, no? Magari c'è, cioè, con il tango, e non so come succederebbe magari con il flamenco, no? Per citare un'altra cosa, ci sono puristi che dicevano che doveva essere fatto in un determinato modo, no? E Piazzolla un po' rompe questo schemi. Chiaramente quando viene insultato, questa è l'aneddota del taxi che sale in un taxi a Buenos Aires, no? E l'insultano dicendogli comunista, infatti. Che diffusione ha avuto questo documentario? Ha circolato in tutto il mondo, nelle sale in Francia, in Germania, ovviamente in Latino America, poi in Giappone, in Russia, insomma un film che ha fatto un percorso grandissimo in Spagna pure, essendo anche Piazzolla una figura molto molto legata all'Italia, perché lui tante di quelle volte che era andato via, lui era cresciuto a New York, dopo tornato a Buenos Aires, lui sempre che andava avanti indietro, è stato un lungo soggiorno in Italia, dove ha prodotto con Pagani il Tango. E da lì sicuramente quello l'album più significativo, del cui insomma si racconta anche non male nel film. Di questo regista cos'altro sappiamo? Daniel Rosenfeld ha già circolato in diversi festival internazionali, per non dire quasi tutti, perché è stato a Berlino, è stato a Venezia anche con il primo film, insomma è un regista che ha lavorato, che guarda caso non è casuale che sia lui il regista di un film su Piazzolla, perché anche Daniel Rosenfeld voleva essere pianista e musicista, insomma è un bravo musicista, è assolutamente. Da lì tutti i suoi lavori hanno avuto molto molto molto molto a che fare con la storia della musica, con la musica, insomma, la musica come un elemento fondamentale e indissociabile della condizione umana, ecco. È un film comunque del 2018. Sì, chiaramente la pandemia ci ha messo tutti in un anno di ritardo con tutto, quindi chiaramente un film su Piazzolla è un film senza tempo, cioè nel senso che l'occasione del centenario comunque sta aiutando anche a diffondere la sua figura, a parlarne sicuramente pian piano, no, dandogli il posto che merita. Non è a caso che anche a Buenos Aires, che è tutto chiuso in questi momenti, il Teatro Colón, che è dove il sogno vero di Piazzolla era trionfare nel Teatro Colón di Buenos Aires, è riaperto proprio in questa data per fare un concerto dedicato a Sor Piazzolla. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie a tutti gli ascoltatori. Martin Peralta di Exit Media Distribuzione sul documentario Piazzolla, la rivoluzione del tango di Daniel Rosenfeld al cinema da venerdì 8 settembre 2021. Con Alessandro Rossetto, regista del film The Italian Bunker, al cinema da giovedì 7 ottobre 2021. Ben trovato! Buongiorno, buongiorno. Che storia è? Come la racconteresti in breve? È una notte durante una festa ed è una notte di resa dei conti. Protagonisti di questa notte sono il presidente di una banca fallita e i suoi clientes circostanti. Sono tutti incazzati come le iene, ma a questa festa partecipano anche un centinaio di invitati che sono, diciamo, il contorno di questo piccolo gruppo di arrabbiatissimi, e sono un po' le pecore, gli invitati, anche loro vittime del crack. È un film in bianco e nero e questa notte viene raccontata come una notte ideale, quindi il film è anche piuttosto ricco di ellissi interne, ecco, forse questa è la sinossi corretta. La scelta stilistica del bianco e nero? Molto materialmente, essendo girato in una villa palladiana, quindi di uno splendido bianco, ed essendo i vestiti deputati per le feste vestiti scuri, già questo andava a favorire la scelta del bianco e nero, però è vero anche che la natura del racconto è piuttosto sospesa, e quindi trattandosi allo stesso tempo poi di un'unità di spazio e di tempo classiche, quindi rifacendosi proprio insomma alle categorie cinematografiche classiche, il bianco e nero sposa questa classicità. Come era nato il progetto? Ha un percorso molto strano e molto interessante dal mio punto di vista, perché Romolo Bugaro, che era l'autore del romanzo Effetto Domino, da cui io avevo molto liberamente tratto un film al quale lui non aveva partecipato in sede di scrittura, era stato chiamato dallo Teatro Stabile del Veneto a scrivere un testo teatrale contemporaneo. Mi chiesero di metterlo in scena, io accettai. E mentre con Bugaro rivalutavamo il testo per il palcoscenico e io stavo progettando la scenografia audiovisiva per lo spettacolo, a me è venuto in mente che potesse diventare un film. In brevissimo tempo il produttore di Effetto Domino, Iole Film, ha accettato e in brevissimo tempo abbiamo scritto la sceneggiatura per andare a girare il film. Quindi un percorso creativo e di immersione del progetto piuttosto interessante, anche perché inusualmente per i progetti cinematografici è stato rapido ed efficace. Ecco, a partire dal materiale di partenza, su quali aspetti hai voluto centrare l'attenzione? Non varia molto perché la natura del soggetto, che è la pièce in fondo, ci collegava alla notte, alla resa dei conti, a quei personaggi. Io poi naturalmente ho portato il cast dello spettacolo sul film. Adesso si potrebbero dire altre cose perché in fondo abbiamo girato il film ancora prima di cominciare le prove ufficiali a teatro, quindi la scrittura della sceneggiatura è ricaduta poi sullo spettacolo, ma questo sarebbe un file troppo ampio. Io non ho cambiato molto, però è vero che sceneggiando siamo andati ad intervenire su delle parti, quindi ad esempio lo spettacolo ha degli elementi di un tipo al suo interno nel racconto, il film ne ha un altro e lo spettacolo ha degli esiti, un finale di un tipo e invece il film ne ha un altro, però non ci siamo molto discostati appunto da questo quadro che è la festa, questo tipo di partecipanti e naturalmente la natura profonda di una notte di resa dei conti. E sempre rispetto al materiale di partenza, cosa avevi apprezzato di quel lavoro? Stiamo parlando di un racconto il cui orizzonte emotivo è un terribile crack bancario che ha privato dei risparmi migliaia e migliaia di persone, provocando guai di ogni ordine e tipo. Come è stato anche scritto, ma era già nel soggetto, si tratta di un thriller marxista. Questo mi è interessato molto. Peraltro io venivo da due film dove mi ero occupato, Piccola Patria, di un gruppo di persone molto ai margini. Con Effetto Domino mi sono cominciato ad occupare di un quadro imprenditoriale che viene macellato dalla globalizzazione. Ecco, Una banca popolare era il titolo della pièce, che poi è diventato The Italian Banker. Il film mi offrivano l'opportunità di entrare molto da vicino a contatto con un gotha finanziario e i clientes circostanti, quindi un'elite. Questo mi ha intrigato molto. Non era un'idea mia, no, The Italian Banker, ma è stato questo motivo probabilmente che mi ha spinto di più, una prosecuzione sul percorso già cominciato con il film precedente. In quante sale? Data la congiuntura, in pochissime sale. Ad ora sembrano 6-7 in un'area molto circoscritta e distribuito da Partenos, una piccola distribuzione. L'accoglienza che ha avuto di stampa dopo la premiere al BFest, il Festival Internazionale Cinematografico di Bari, ci fa sperare che la circuitazione si estenda, però insomma raggiungere molti molti schermi non ci sarà facile. Confidiamo che il cosiddetto passaparola e le ottime critiche possano aprire ad interessi più vasti. Per saperne di più, ci dai dei riferimenti web? Iole Film, il produttore, Partenos, la casa di distribuzione. Naturalmente, scrivendo sul web, googling, The Italian Banker, si possono trovare ormai molti articoli, molte schede, molti materiali. C'è già parecchio sul web, sul film. L'uscita è dopodomani. Ecco, ci sarà un'anteprima a Milano il 6 ottobre alle 19:30, forse è prevista anche una proiezione nel pomeriggio, ma sembra una novità, e ci sarò anch'io a Milano. Il film The Italian Bunker al cinema da giovedì 7 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Rossetto. Grazie a voi. A presto. A presto. Con Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna per presentare il film restaurato Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard al cinema da lunedì 4 ottobre 2021. Ben trovato! Salve! Evviva! Come ne parliamo? Come lo presentiamo questo film? Beh, è un film che fa parte della vita, ecco, per chi lo ha visto, per chi lo deve vedere. È un film in qualche modo sconvolgente, ecco, perché è un film che all'inizio degli anni 60 cambia il modo di raccontare, ecco. È il frutto, è il primo film di Jean-Luc Godard, è anche il suo unico successo, è un film che addirittura Hollywood ne ha fatto un remake, è l'inizio della carriera per Bebel, per Jean-Paul Belmondo, che è scomparso da poco tempo, ed è un po' un punto d'arrivo di una carriera molto breve invece per Jean Siberg, che era una stella nascente del cinema hollywoodiano, poi viene a fare un film hollywoodiano ma in Costa Azzurra, che è Bonjour Tristesse di Preminger, e Godard ne resta folgorato. Ecco, la coppia Bebel e Siberg sono il fulcro del film, tanto che Godard disse: ma questo in fondo è un documentario su Belmondo e sulla Siberg. E in effetti questa macchina da presa che li inquadra come nessuno aveva mai inquadrato una coppia di innamorati, con in più una capacità di costruire dialoghi che sono presi dalla strada e contemporaneamente citazioni di grandissime opere letterarie, perché poi il film è, come tutto il cinema di Godard, di una ricchezza culturale, per cui c'è Bach, c'è Mozart, c'è Lenin, c'è Marx, c'è una densità anche di citazioni, ecco, perché il film è contemporaneamente l'invenzione di un nuovo linguaggio, ma anche la continua citazione di altri linguaggi. E poi è un film che ha uno dei più famosi finali della storia del cinema, perché ecco, l'altra chiave del film è un film molto melanconico, perché è un film che ci dice anche che quel cinema classico che i giovani della Nouvelle Vague avevano adorato, quindi il cinema dei Ford, dei Preminger, il cinema di Humphrey Bogart che viene molto citato e che era appena scomparso, ecco, quel cinema classico non esisterà più. Com'è stato il restauro? Beh, insomma, mettere le mani in un film che è un monumento, che a sua volta è stato citato da tantissimi autori, tra l'altro è un film verso il quale tutta l'intelligenza francese dell'epoca si schierò, da Janson a Cocteau a Sartre. E insomma, come abbiamo lavorato? Allora, siamo ripartiti da un restauro che aveva fatto una ventina di anni fa, sempre Studio Canal, Canal Plus, con l'aiuto del direttore della fotografia del film, che era uno dei più grandi direttori della fotografia di tutta la storia del cinema, proprio perché con queste macchine leggere, con questo bianco e nero da cinegiornale, ecco, lui veniva come direttore della fotografia dal reportage di guerra in Cambogia. Ecco, lui aveva seguito il restauro su pellicola una ventina d'anni fa, e quindi in questo restauro digitale noi poi abbiamo seguito passo passo soprattutto la color, quella ricerca di densità e di questo bianco e nero molto particolare, che è un po' una delle invenzioni del film. Quindi è la prima versione digitale restaurata, ha avuto già una presentazione in Francia, ma devo dire noi siamo molto, molto soddisfatti, perché il restauro si è svolto presso il nostro laboratorio delle immagini ritrovate. Come sarà l'uscita? Abbiamo fatto un'anteprima a Roma al Sacher, adesso usciamo al circuito cinema, usciamo in una cinquantina di sale in Italia. C'è molta attesa perché è un film è un film mitico, ecco, e soprattutto è uno di quei film che chi l'ha visto oggi magari non è più un ragazzo come il sottoscritto e ha voglia di vedere se uno dei grandi film della sua giovinezza resta un film fresco, è un film giovane, un film innovativo. Ecco, io credo che quella carica in fondo rivoluzionaria che era dentro questo piccolo film enorme sia rimasta intatta. Ecco, questo film nasce nella mente di Godard, che ha in mente un cinema completamente nuovo, e si può dire che il cinema moderno nasce qui, nasce con questo film così particolare, così unico, così irripetibile. Il film restaurato fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard al cinema da lunedì 4 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna. A presto! Grazie, grazie molte. Con la regista Elisa Flaminia Inno per presentare il suo documentario in 5 parti, Donne di Terra. Ben trovata. Ciao Federico, ciao a tutti, grazie per questo invito. Ce ne parli? Donne di Terra è un documentario che racconta la storia di 5 donne che hanno intrapreso un nuovo cammino di vita. Questa scelta è dettata innanzitutto da un desiderio di cambio di vita personale e poi in seconda battuta anche dal desiderio di contribuire alla causa ambientale e riuscire ad avere un rapporto con i consumi e l'ambiente differente. Questo progetto è nato nel 2017 in seguito al mio incontro appunto con le donne di terra che all'epoca presentavano il loro calendario contadino, e così ascoltando queste storie e seguendole appunto nei loro incontri con il pubblico che andava ad ascoltare queste donne che raccontavano come avevano fatto a cambiare vita, ho capito che questa era una storia da raccontare. Le donne sono Nanà, Maura, Doris, Maria Luisa e Maria Pia, sono 5 contadine di nuova generazione e attiviste per l'ambiente che vivono e operano sul territorio della regione Campania. Ognuna di loro è custode di un territorio, di un pezzo di terra che coltivano e che animano con attività legate alla produzione di cibo biologico, all'allevamento di animali in una maniera non intensiva e in una serie di azioni di relazioni e contatto con il pubblico che servono appunto ad avvicinare fondamentalmente le persone della città a questo stile di vita di campagna. Queste azioni sono fattorie didattiche, ospitalità di woofer, quindi di giovani che da tutto il mondo vengono in Italia come in altri posti per imparare a coltivare e apprendere altre tecniche legate appunto alla ruralità e al lavoro della terra e soprattutto a scambiare esperienze e conoscenze. Il film nasce a episodi, quindi ha una genesi divisa in 5 storie. Queste storie poi sono state montate appunto in un unico film che racconta la storia e di ognuna di loro e di come si è formato questo gruppo appunto delle donne di terra. Sono nel complesso 5 o ne scelte solo 5 di questa realtà? Le donne di terra sono un gruppo di 12 donne che appunto sono attive nel territorio della regione Campania, anche se portano le proprie attività sia in tutta la nazione che all'estero, ma ne ho scelte 5 come rappresentanti di questo gruppo e di questa storia per poter raccontare appunto la loro storia in un film di 52 minuti. Come hai deciso di strutturare il racconto? In una forma poetica che è costruita sulla loro autonarrazione. Quindi innanzitutto ho seguito quelle che sono le loro principali attività in campagna e nel contatto con la città, per cui la coltivazione dell'orto, la trasformazione dei prodotti dell'orto, come ad esempio le conserve, piuttosto che il vino, la produzione di olio biologico, e le ho seguite anche nelle loro attività appunto di contatto con il pubblico, quindi durante alcuni laboratori attraverso i quali le donne di terra insegnano a trasformare i prodotti, a creare cosmetici, e così abbiamo creato un racconto per immagini di quella che è la loro attività. Questo racconto per immagini è sostenuto allo stesso tempo dalla loro narrazione, quindi loro in voice over, ognuna di loro racconta la propria vita, racconta come ha avviato questo processo di cambiamento e lo fa in una chiave davvero straordinaria, perché la loro consapevolezza di donne che non sono nate in campagna ma sono nate in città e poi hanno scelto la campagna ha fornito loro nel tempo degli strumenti per poter essere delle vere e proprie medium di questo tema, quindi delle mediatrici tra la vita di città e la vita di campagna, che io credo sia quello di cui davvero abbiamo bisogno in questo momento. È un'esperienza che copre tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione. Sì, in questa nuova onda di attivismo dell'agricoltura è fondamentale oltrepassare quelle che sono le barriere della distribuzione tradizionale del cibo, fondamentalmente, per cui il sistema di autoproduzione si basa sia a partire dallo scambio di semi per passare attraverso appunto la coltivazione biologica e l'allevamento, ma anche poi per arrivare ad una filiera distributiva a chilometro zero, attraverso il contatto diretto tra il produttore e un consumatore che di fatto non è più un consumatore inteso in senso tout court, ma è un consumatore innanzitutto di cultura, un consumatore di storia ed è un consumatore che contribuisce a rinforzare questa filiera alimentare dal basso e di conseguenza a distruggere quella che è la filiera dell'alimentazione controllata dal capitalismo e dalle forze economiche che sfruttano di fatto le risorse della terra. È un fenomeno in espansione? Assolutamente sì, riesco da quando conosco queste donne a riconoscere in tante persone che incontro il seme del cambiamento. E questo è il motivo per cui ho deciso di fare questo film, perché ho sentito che tantissima gente aveva bisogno di un esempio, aveva bisogno di una testimone, di qualcuno che potesse raccontare con la propria stessa esperienza cosa significa cambiare vita e cosa significa entrare in sintonia con il pianeta e con la natura pur mantenendo una vita attiva nella contemporaneità. E questa è una comunità che va sempre più allargandosi, esistono già da tanti anni tantissimi movimenti che si occupano di diffondere e di praticare questi nuovi stili di vita, ma oggi questo tema è ancora più sentito, specialmente dopo la pandemia e dopo tutte le difficoltà che in Italia così come nel mondo si sono affrontate rispetto all'economia e rispetto anche alla salvaguardia del pianeta. Oggi le persone sono molto più sensibili a questo tema e io spero che questo film possa davvero accendere una speranza e accendere un cammino all'interno di tutte le persone che lo guarderanno. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, assolutamente. Il film sarà presentato in anteprima al Festival Cinema Ambiente di Torino. La prima proiezione sarà lunedì 4 ottobre alle ore 19 al Cinema Massimo e dopo saremo ospiti di altri festival sul territorio nazionale e a fine anno ci sarà l'uscita su una piattaforma di cui al momento ancora non posso rivelare il nome, ma di cui parleremo molto e per tutte le informazioni potete seguirci sul nostro sito, sulle nostre pagine della produzione 1506 Film. Il documentario in 5 parti, Donne di Terra. Un saluto e un ringraziamento alla regista Elisa Flaminia Immo. A presto. Grazie a te Federico, grazie a tutti. Arrivederci. Con Pasquale D'Aiello, regista del documentario I primi saranno gli ultimi. Ben trovato. Ciao a tutti, ciao Federico. Sì. Per chi ci ascolta, che storia racconta? Questo è un documentario che abbiamo girato io e Mauro Manna come autori e che nasce nel 2015 ed è il nostro tentativo di rintracciare tutti gli ultimi volontari repubblicani che avevano combattuto durante la guerra civile di Spagna. Il viaggio è durato dal 2015 al 2018 e quando l'abbiamo iniziato non sapevamo quanti reduci repubblicani volontari ancora erano in vita in quel momento nel mondo, e inizialmente pensavamo che ce ne fossero soltanto due o tre. Poi invece, continuando le ricerche, scavando, abbiamo scoperto che erano almeno otto quelli che noi siamo riusciti a trovare, e quindi abbiamo chiuso e riaperto la produzione diverse volte finché non siamo stati ragionevolmente sicuri che non ce n'erano più al mondo di reduci che potevano raccontarci questa loro storia. Alla fine sono stati otto, scoperti in tre anni di lavoro in maniera molto fortuita, perché non c'erano archivi che contenessero tutti questi nomi, nessuna istituzione aveva la conoscenza di queste persone, anzi le associazioni combattentistiche pensavano fossero molti di meno perché non ci fosse quasi più nessuno, però in realtà alcuni non avevano più contatti con le associazioni e invece erano ancora in vita. A questi otto, di tutti gli orientamenti politici dello schieramento repubblicano, ne abbiamo aggiunto anche un altro, un nono, reduce, che non era del schieramento repubblicano, era dello schieramento franchista, era un italiano. Noi avevamo escluso questa teoria, cioè non perché non si possa dare la parola anche agli altri o ascoltare le loro storie, soprattutto dopo 80 anni si può sicuramente fare, ma non era, diciamo, nel nostro scopo, del nostro documentario, ma lo abbiamo comunque intervistato perché la sua storia era incredibile. Lui era partito volontario con l'esercito fascista italiano e ha combattuto a Guadalajara, ma a Guadalajara c'era anche suo cugino, che invece era un repubblicano che combatteva nelle brigate internazionali, e ha combattuto anche lui a Guadalajara, uno contro l'altro. E noi abbiamo scoperto questa cosa qua scavando negli archivi, ritrovando delle storie in alcuni libri, e la certezza esatta di dove fossero collocati tutti e due nello stesso giorno era impossibile da avere, ma era molto probabile che fossero molto vicini durante i giorni della battaglia di Guadalajara. Lì il cugino repubblicano morì e noi siamo andati anche a raccontargli questa storia che lui non conosceva fino in fondo, però ci sembrava molto emblematico raccontare come la guerra civile spagnola ha spaccato e diviso anche le opinioni pubbliche, le famiglie, anche in Italia, cioè il rapporto tra Italia e Spagna è sempre stato molto forte attraverso la guerra civile spagnola. Com'è nato tutto? Sia io che Mauro avevamo questa passione per la guerra di Spagna, che ci era sempre sembrata una storia molto simbolica anche di quello che era il tentativo di cambiare la propria vita e la vita dei posti in cui si abitava, un ideale che fosse anche internazionale, che racchiudesse l'ideale di libertà, di progresso e anche le aspirazioni di un mondo migliore. E dentro questa storia purtroppo sfortunata, che purtroppo finisce con un fallimento per i repubblicani, però noi trovavamo tutti quegli ideali, quei valori che ci avevano sempre interessato e affascinato nella nostra vita, e quindi volevamo ascoltare per l'ultima volta questa storia dai diretti interessati. Che bagaglio ti porti dietro da questa esperienza? Un bagaglio soprattutto umano. Il lavoro è stato molto faticoso, frastagliato, non eravamo pronti per girare questo film, ma siamo dovuti partire sull'impeto dell'esigenza del fatto che nel 2015 ci sembrava che ce ne fossero due o tre nel mondo di reduci, e questi due o tre reduci ormai centenari potevano morire da un giorno all'altro. Noi quindi siamo dovuti partire così come eravamo, senza avere un piano di finanziamento, di piano di produzione, le risorse e tutto il know-how necessario per partire. Quindi un'avventura sicuramente che ci ha molto scombussolato da un punto di vista tecnico, però umanamente ci ha molto arricchito, cioè noi abbiamo conosciuto delle persone che puoi vivere 100 anni nella tua vita e potresti non incontrarle mai, persone così, persone che hanno vissuto esperienze eccezionali, che hanno conosciuto luoghi di battaglia, personaggi storici importanti, che hanno vissuto drammi interiori fortissimi, e sentire queste storie da loro a 100 anni suonati d'età significa anche avere uno sguardo sulla vita, cioè è un modo con cui hanno vissuto, ci consegnavano un bagaglio di vita anche, quindi umanamente un'esperienza fortissima. Che tipo di diffusione state organizzando? Il film è partito sicuramente con l'obiettivo di una diffusione non commerciale, quindi attraverso i festival, attraverso le proiezioni, attraverso una diffusione capillare nelle città, nei luoghi di aggregazione che vorranno ascoltare queste storie. Noi cominciamo questo percorso appunto mercoledì 6 ottobre al Valdarno Cinema Film Festival, dove il nostro film partecipa in un evento di preapertura organizzato insieme all'AMPI, e quindi iniziamo questo percorso e poi pensiamo, insomma, di fare altre proiezioni in giro per l'Italia e magari anche in altri festival, e quindi di portarlo al più ampio numero di persone questa storia. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Noi abbiamo un blog del film che si chiama appunto I primi saranno gli ultimi .wordpress.com. Poi abbiamo la pagina Facebook dedicata ai primi saranno gli ultimi, e se andate sul canale YouTube dell'associazione culturale che ha prodotto il film, che si chiama Consorzio Sperimentazione Immagine, trovate anche dei contenuti extra, delle clip aggiuntive, delle storie che ci hanno raccontato questi uomini, che sono tantissime, ma che non abbiamo potuto inserire tutte nel film. Esiste ampia documentazione e contenuti sul web del nostro film. Il documentario I primi saranno gli ultimi. Un saluto e un ringraziamento al regista Pasquale D'Aiello. A presto! Grazie, a presto, e a tutti voi. Ci vediamo vicino al grande schermo, speriamo. Con Nicola Falcinella, uno dei curatori della seconda edizione del Balkan Film Festival a Roma, Casa del Cinema, dal 6 al 10 ottobre 2021. Ben trovato. Ben trovati a voi. Nicola, una seconda edizione, raccontaci un po' di questa realtà. Sì, è una seconda edizione. È un'edizione anche più strutturata, l'organizza l'associazione Occhio Blu, che da qualche anno occupa delle attività prevalentemente culturali e prevalentemente collaborazione con l'Albania, e però negli ultimi tempi ha allargato il raggio d'azione a tutta l'area balcanica e da proiezioni isolate l'anno scorso ha deciso di fare una rassegna più strutturata, e questo Film Festival, che quest'anno è la seconda edizione. Lo scopo è far vedere al pubblico romano prevalentemente i film di area balcanica che o non sono mai stati proiettati in Italia oppure hanno circolato molto poco. E l'altra idea è di proporre un film per ogni paese o quasi ogni paese dell'area balcanica. Quanti sono i titoli? Sono 12. Questo perché non esattamente tutti i paesi sono rappresentati, perché il Montenegro strettamente non ci sarebbe, però c'è un focus sul Kosovo, ci sono 3 film del Kosovo, quindi sono 12 film. Sono previsti anche alcuni incontri con autori e autrici? Sì, ci sono diversi ospiti, diversi incontri, cominciando dalla giornata inaugurale, che c'è un po' l'ospite d'onore del festival, che è Milko Malceschi, che è il regista macedone, che nel 1994 vinse il Leone d'Oro a Venezia con un film Prima della pioggia, che è uno dei film simbolo che hanno raccontato la disgregazione della Jugoslavia, e presenterà il suo ultimo film e si chiama Willow. Non è proprio un'anteprima, perché è un film di 2 anni fa ed è già passato alla Festa del Cinema di Roma, però comunque è un film che è stato poco visto, è stato passato soltanto in quell'occasione, non ha mai avuto una distribuzione in Italia, e ci sembrava che Malceschi fosse un nome grosso e adeguato come ospite per aprire l'edizione, e quindi sarà presente, dialogherà con il regista italo-albanese Roland Seiko, e poi sarà proiettato questo Willow. Prima citavi Prima della pioggia, che ricordo anche per una gran bella colonna sonora. Come sono strutturati questi 5 giorni? Ci sono delle proiezioni dal pomeriggio alla sera a Casa del Cinema. Ovviamente per accedere alle proiezioni bisogna essere in possesso del Green Pass o avere fatto il tampone. Comunque tutte le informazioni sono sul sito casadelcinema.it. È meglio prenotarsi, è meglio riservare il proprio posto. E ci sono anche degli altri ospiti che non ho citato, che sono 2 registe kosovare, perché appunto c'è il focus sul Kosovo, e quindi sono Antonietta Castrati, che presenterà il suo film Zana, che è una storia di una donna che è sopravvissuta alla guerra del 1999, ma si è portata dietro un dolore che ancora le condiziona pesantemente la vita. E poi ci sarà More Acha, che è un'altra regista kosovara, che presenterà Andromeda Galaxy, che invece ha un film su un rapporto padre e figlio nel Kosovo attuale, con il problema del trovare lavoro. E poi ci sarà la rivista svizzera Andrea Staka, che è svizzera ma di origine jugoslava, che è da ricordare perché vinse il Pardo d'Oro a Locarno nel 2006 con Das Fräulein, e stavolta presenta Mare, che è una coproduzione tra Croazia e Svizzera ambientata a Dubrovnik, ed è una storia di una donna in cerca di una sua identità. E quindi ogni produzione sarà accompagnata da una presentazione con degli ospiti o comunque da un'introduzione di qualcuno di noi. E poi ci sarà sabato un panel, un incontro sul tema delle donne del cinema femminile nei Balcani, a cui appunto parteciperanno le due registe kosovare e Andrea Staka, e che sarà moderato da Luisa Chiodi, che è la direttrice degli Osservatori Balcani Transeuropa. I riferimenti internet ce li hai dati. Seconda edizione del Balkan Film Festival a Roma, Casa del Cinema, dal 6 al 10 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Nicola Falcinella. A presto! Grazie a voi, a presto, a risentirci. Direi alla fine dell'anno per i 5 film dell'anno, come al solito. Va bene. Sì, un abbraccio. Sì. Un abbraccio a te, grazie. Ciao. Con Cristina Berlini, direttrice artistica della terza edizione del Festival Doku Donna a Massa Marittima dall'8 al 10 ottobre 2021. Ben trovata. Ciao caro, salve a tutti. È un piacere averti qui. Presentiamolo per chi non lo conoscesse. Doku Donna è un festival internazionale di documentari a regia femminile, quindi tutti sono registe donne. Com'è nato tutto? 3 anni e mezzo fa, quando avevo intenzione di creare qualcosa che potesse dare un po' di spazio in più alla cinematografia femminile. Trovavo e trovo ancora ridicolo che i festival diano sempre pochissimo spazio a film diretti da donne. Per quale motivo? Un mistero che ancora non ho idea, ma perché ce ne sono tante. E la sorpresa è quest'anno, ad esempio, è la terza edizione, ma abbiamo più di 95 film arrivati soltanto attraverso la piattaforma online Film Freeway. Cioè, questo dimostra che le produzioni cinematografiche al femminile sono tante. È una produzione molto vitale e qualità altissima. Quindi non è che non esiste, è semplicemente non c'è spazio, non viene dato spazio. Così nasce un po' l'idea di Doku Donna. Quindi poi il documentario è visto sempre come un genere minore, tra virgolette, ma non è altro che il cinema del reale, quindi non ha niente di meno del cinema, tra virgolette, tradizionale, la fiction, no? La fiction inserita come finzione, anzi, e secondo me sta diventando, soprattutto per le giovani, le generazioni e per le donne, uno strumento importantissimo di sperimentazione. Non a caso noi quest'anno abbiamo selezionato moltissimi mediometraggi, molto sperimentali, tra lo sperimentale e il materiale ad archivio, insomma molto interessante secondo me, si dà la possibilità di spiazzare un po' ovunque il documentario, quindi molto interessante. E poi racconta ovviamente per il femminile, per la donna, secondo me, raccontare degli argomenti, delle storie che si sono vengono affrontate. Ad esempio abbiamo, sì, esempio abbiamo un film, Io sono un perfetto francese, Insomma, che è della Vittorini, che è praticamente una storia, a parte con una fotografia eccezionale, eccellente, perfetta, però il racconto è una storia di due ragazzi, una coppia di ragazze che vivono un lockdown con le loro problematiche in Belgio. Molto interessante perché spesso questo argomento, le coppie gay o lesbiche, vengono sempre idealizzate come la perfezione, ed è un argomento secondo me interessante perché è nuovo. Saranno presenti le autrici? Sì, ci saranno un po' di registe presenti, quasi tutte all'Italia, abbiamo 2 dall'Olanda. Ci sono moltissime produzioni olandesi, perché noi abbiamo una collaborazione con il Festival Internazionale IFA, olandese di Assen, anche storico al femminile, non documentario solo, ma è tutto. da un paio di anni noi ci scambiamo, tra virgolette, i film, ok, documentari noi diamo a loro nel loro festival a novembre e loro ci portano una loro selezione. Questo perché, a parte perché ci siamo simpatiche, a parte quello, ma soprattutto perché noi siamo un veicolo, no? Come direttrici artistiche, come festival, siamo una vetrina. Ovviamente, quindi è quello l'unico, almeno per me, l'unico fine del festival, quindi promuovere registe e soprattutto e poi anche il documentario, far conoscere meglio il documentario. E quindi questa bella collaborazione è interessante, infatti ci ha fatto conoscere un film speciale che si chiama Why Didn't You Stay Here For Me? Di una giovane regista olandese, alla prima produzione, incredibile, perché insomma la tematica, la maturità con cui ha potuto parlare di un tema quale il suicidio di uno dei genitori, che l'ha vissuto lei, ha intervistato ragazzini di 10 anni con una delicatezza, quindi lei ha rivissuto la sua journey, no? Il suo viaggio, questa avventura terribile attraverso i racconti dei ragazzi che ha intervistato, con una maturità, con una semplicità tecnicamente perfetta, anche con cartoni, con animazione e poi con dei capitoli di sensazioni. Tutto questo in 25 minuti. Fantastico, quindi siamo rimaste folgorate. Come sarà strutturato anche per i luoghi e gli orari? Iniziamo l'8 ottobre, al pomeriggio di film olandesi, l'abbiamo affittato con uno slot intendiamo appunto programmazioni di massimo 2 ore e mezzo, poi ci sta una pausa e poi ricomincia il secondo slot o il terzo slot, più o meno fino alle 10:30-11. Il giorno dopo, che è il 9, ci avremo la presentazione di un libro, Architettura del desiderio, da Zanini, cioè da Zanini e Federico Fabiani, sul cinema della Céline Chammat. Insomma, ci saranno vari omaggi, un omaggio alla Cecilia Mangini, scomparsa pochi mesi fa, a cura di Mariangela Barbanente. Con delle chicche avremo 2 cortometraggi del 59 e del 60, Maria e i giorni e Senda lì suonano ancora. E poi Viaggio con Cecilia, che Mariangela Barbanente ha girato insieme alla Cecilia Mangini. Quindi avremo un po' di cose miste, ovviamente molti film, molti documentari, però è importante anche riuscire a dare degli input diversi, delle informazioni diverse. Poi per me, per noi è molto importante sempre fare il punto, no? Nella situazione ogni anno e dire ok, dove siamo come donne creative, no? A che punto è la situazione delle produzioni cinematografiche, la differenza che ci può essere se è migliorata, se è peggiorata dallo scorso anno o da 2 anni fa, se ci sono state più film prodotti quest'anno e finanziati quest'anno. E questo, quindi creiamo dei focus dove ci si incontra con esperte, ricercatrici, professioniste, facciamo il punto, ecco, e cercare anche delle strategie se dovesse esserci un cambiamento, nel caso ci debba essere. E quest'anno ci siamo dedicate sul panorama europeo, con ospiti internazionali che ci aiutano a capire, ok, tipo appunto l'Olanda, che è un ospite olandese che ci parla l'Olanda, quante sono le produzioni di registe donne, a confronto ovviamente da quelle con quella dei maschi. Non so, secondo me è molto interessante questo, ma a me piace particolarmente fare ogni anno il punto, trovare un momento di riflessione e soprattutto di capire, di incontrarci comunque è importante, e trovare anche dei punti di incontro e possibilità di cambiamento. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Avremo anche lo streaming, soltanto di 6 film, su Streen, la piattaforma online che è Streen con 3 E, e il nostro sito è www.docudonna.it. Abbiamo entrambi tutte le informazioni, compresi i trailer, sia in italiano che in inglese. Terza edizione del Festival Docudonna a Massa Marittima dall'8 al 10 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Cristina Berlini. A presto! Grazie Federico, buona giornata! con Giuseppe Perico, responsabile della programmazione Mondovisioni, la rassegna dei documentari di Internazionale a Bergamo al Cinema del Borgo dal 7 ottobre all'11 novembre 2021. Ben trovato. Buongiorno, ciao a tutti. Ci parli di questa rassegna? È già da alcuni anni che proponiamo i documentari Mondovisioni della rivista Internazionale al Cinema del Borgo. Quest'anno saranno appunto tutti i giovedì dal 7 ottobre all'11 novembre al Cinema Teatro del Borgo, centro Bergamo. Ci piace sempre molto questa proposta perché ci fa viaggiare in tutto il mondo e apre la mente e gli occhi su tante questioni sociali. Quanti sono i titoli? Sono 6, si spazia in diversi continenti e nazioni, dall'India agli Stati Uniti, alla Turchia, Francia, Brasile e poi l'Africa. Come sono articolate le giornate? Le proiezioni appunto sono alle 9 di sera e saranno introdotte grazie anche all'aiuto di Simona Rota che coordina il progetto insieme a me e poi dagli studenti di Students for Equality dell'Università di Bergamo e poi ogni serata appunto si presenta un film. Si parte con Writing with the Fire, dove si va in India e il tema è quello dei diritti delle donne, in particolare di questo gruppo di donne che, appartenenti alla casta più bassa della società, ha inventato un nuovo modo per far sentire la propria voce e opporsi alla tradizione che le vuole silenziose e sottomesse, e quindi racconta appunto la loro sfida, ecco. Col secondo film, il 14 ottobre, The Neutral Ground, siamo negli Stati Uniti, a New Orleans, e si parla anche qua di informazione. Il tema è quello del dare visibilità al movimento Black Lives Matter, in contrapposizione invece al movimento suprematista bianco. L'occasione è la rimozione di alcune statue che genera appunto un dibattito e il regista, che è anche un comico, trova un modo originale per informare e approfondire queste tematiche in modo originale. Quindi appunto si parla di razzismo, ma con una visione giornalistica comica e originale. Poi con Dying into Divorce siamo in Turchia. Qua la questione, il tema sono le violenze di genere e la reazione anche qua di un gruppo di donne che sfida, diciamo, il sistema legale che prevede delle sentenze molto leggere per chi è colpevole di atti violenti contro le donne. E qui appunto la questione della Turchia è molto molto attuale, i diritti democratici in generale, che sono sempre più messi in discussione, sono al centro del film. 28 ottobre abbiamo The Monopoly of Violence. Qua si parte dalle vicende dei gilet gialli in Francia per collegarsi però al G8 di Genova in Italia, avvenimento passato ma molto che è ancora nella memoria e nelle battaglie, diciamo, oppure collegarsi anche alle vicende del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quindi il tema è quella delle proteste e della legittimità dell'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine. Quindi anche qua un'inchiesta giornalistica molto interessante su questo tema. Gli ultimi due film sono The Press vs. Denialism. Siamo in Brasile e quindi il tema è politico. Si pone l'attenzione su un gruppo di giornalisti brasiliani che va a scavare nel modo con cui il presidente brasiliano ha fatto un'opera di disinformazione e di negazionismo di molte informazioni. Quindi questi giornalisti vanno a mettere a nudo queste contraddizioni e nello stesso tempo danno una visione del Brasile sotto gli effetti del coronavirus e di tutto ciò che ha cambiato la società in questa situazione molto fragile. Finiamo con il film The Last Shelter, dove c'è un altro dei temi sempre molto cari a Mondovisioni, che è quello delle migrazioni. Siamo in Mali, sul margine medio orientale del deserto del Sahara, dove c'è un luogo che accoglie migranti che da una parte vogliono raggiungere l'Europa oppure che fanno ritorno dopo un fallito tentativo di viaggio. Si incontrano due ragazzi e una donna che dialogano e fanno emergere tante problematiche legate a questa questione e quindi aprono gli occhi a questa problematica. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Il nostro sito è www.sas.bg.it, dentro appunto c'è la sezione di Cinema Teatro del Borgo e Mondo Visioni, ci sono i riferimenti anche per preacquistare i biglietti che in questo periodo per il cinema è consigliato per velocizzare l'ingresso. I costi, vabbè, sono 6,50 euro per gli over 26 e invece c'è un prezzo speciale per gli under 20 per incentivare a far venire anche i ragazzi più giovani di 4 euro. E le proiezioni sono le 21, i biglietti si possono acquistare anche prima della proiezione. Mondovisioni, la rassegna dei documentari di Internazionale a Bergamo al Cinema del Borgo dal 7 ottobre all'11 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Giuseppe Perico, responsabile della programmazione. A presto! Grazie, ciao! Con Jonathan Ferramola, direttore artistico della 15ª edizione del Terra di Tutti Film Festival a Bologna e online su OpenDDB, distribuzioni dal basso dal 4 al 10 ottobre 2021. Ben trovato. Grazie Federica, buona giornata, buon ascolto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Raccontiamolo a chi non lo conosce, cos'è questo festival? Siamo ormai in quell'età della maturità, dell'adolescenza, siamo un festival arrivati appunto alla 15ª edizione che si consolida insomma nel panorama del documentario sociale, combat cinema dal sud del mondo, io amo scherzare con questa definizione perché tutte quelle le 24 opere che si vedono in concorso, che concorrono appunto in diverse sale della città di Bologna dal 4 al 10 ottobre e in uno screening gratuito online dal sito appunto di Terra di Tutti Filmfestival.stream, è sostanzialmente un giro del mondo caleidoscopico di territori in ebollizione, no? Stiamo vedendo le immagini, giungono abbastanza forti, anche a tratti inquietanti, insomma, dal vulcano delle Canarie. Ebbene, queste storie metaforicamente ci giungono da tantissimi territori nel mondo. È un'ebollizione metaforica fatta di migrazioni climatiche, di intere popolazioni che scappano da guerre, da situazioni di crisi climatica ambientale, sono territori che stanno lottando per i diritti umani o per la riconquista, insomma, di diritti non riconosciuti. Parliamo anche di società civili che non si accontentano magari della situazione in cui vivono e ambiscono a migliorare la loro condizione. Tutto questo raccontato dagli occhi spesso di produzioni locali. Noi privilegiamo molto il cinema dei territori, il cinema del sud, che arriva proprio prodotto e distribuito spesso su e che magari ha poche scarse possibilità di arrivare ai nostri grandi schermi. Quindi, insomma, apriamo delle possibilità anche narrative al pubblico che ne ha voglia, le chiede, perché insomma, viviamo in un paese che sai benissimo che i documentari di cinema del reale ne ha bisogno, gli spazi sono sempre pochi. Com'è stata la scelta di queste opere? Difficile, perché abbiamo avuto un record di iscrizioni al nostro bando sulla piattaforma Film Freeway, insomma abbiamo raggiunto quasi 700 opere iscritte, che è tantissimo per un piccolo medio festival come il nostro, e anche con il supporto, devo dire, molto molto interessante quest'anno di un gruppo di giovani selezionatori del DAMS di Bologna, DAMS che sta compiendo 50 anni di vita, per cui assieme al corso analisi dei film, e per questo ringrazio anche il professor Paolo Noto, un gruppo di valorosi selezionatori mi ha affiancato nel cercare di catalogare e selezionare tutto questo materiale. La scienza è stata incrociando sicuramente tematiche, dai 20 anni dell'Afghanistan ai 10 anni della guerra in Siria, il tema palestinese, il tema Sahrawi, parleremo di Bielorussia, parleremo di diritti delle donne, di migrazioni, di muri che dividono, di Venezuela in una crisi senza fine. Insomma, il tentativo è quello di tenere una finestra sempre aperta sui grandi temi di attualità del mondo e anche del nostro Mediterraneo, perché insomma si continuerà a parlare di migrazioni via mare, di rotta balcanica, parla anche delle grandi crisi che ci investono, no? Il Covid molto presente anche nelle produzioni che arrivano da tanti territori. Quindi insomma uno sguardo laterale che cerca di portare all'attualità anche storie magari sopite nei media o nei racconti, ma non sicuramente risolte magari nei luoghi dove vivono. Come saranno articolate le giornate in presenza? Abbiamo deciso anche il supporto della rete di sale cinematografiche che hanno vissuto due anni veramente molto difficili e un presente ancora tutt'altro che risolto, per cui abbiamo deciso di fare un giro con i nostri film a incontrare le sale e i loro pubblici, per cui dal lunedì al Cinema Europa, dal lunedì 4 Cinema Europa, al martedì la Sala VAG, al mercoledì all'Odeon, il Cinema Galliera e poi nel fine settimana la Cineteca di Bologna, il Cinema Lumière, faremo un giro dalle 18 alle 24 ogni sera nelle nostre sale storiche. Durante il giorno invece saremo in questo spazio rigenerato, chiamato ADAFT, uno spazio dedicato alle arti performative e all'incontro anche di altre arti, e faremo degli incontri con autori, degli incontri sulla fotografia, dei dibattiti sul tema del giornalismo, su questi temi, assieme all'Ordine dei giornalisti, parleremo di crisi climatiche e parleremo di Afghanistan, parleremo di Amazzonia e parleremo anche di crimini d'odio, insomma sarà un modo anche così a parole per affiancare le visioni che poi ci accompagneranno durante la sera. Quindicesima edizione del Terra di Tutti Film Festival a Bologna e online su OpenDDB Distribuzioni dal Basso dal 4 al 10 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jonathan Ferramola. A presto! Grazie Federico, un grazie a tutti e un buon ascolto. Con Jay Weisberg, direttore artistico delle giornate del cinema muto a Pordenone dal 2 al 9 ottobre 2021. Ben trovato. Grazie mille, buongiorno. Un'edizione tonda, giusto? Sono 40. Sì, 40 edizione è una cosa incredibile per me, visto che sono il direttore solo per l'ultimo sei anni e sono proprio lusingato di essere una parte di questo magnifico festival. Per chi non lo conoscesse, lo descriviamo? Certo, è un festival solo del cinema muto, quindi non film fatto adesso, ma nell'epoca di muto, quindi dal 1895 fino al più o meno 30, dipende dal paese, ma per esempio quest'anno abbiamo una rassegna sul cinema muto in Corea, e Corea è probabilmente il paese in cui il cinema muto esiste più a lungo che negli altri paesi, quindi anche dopo la seconda guerra mondiale per un piccolo parte della produzione. Comunque, il festival è sempre una settimana con musica dal vivo, quindi di solito dalle 9 della mattina fino alle mezzanotte c'è sempre musica dal vivo che consiste in pianoforte e anche partitura orchestrale, e questo è una delle forze del festival, che abbiamo questa enfasi su non solo il film anche la musica. Quante sono le opere presentate in questa edizione? Come ogni anno abbiamo vari temi da seguire, quindi ho già menzionato quello di Corea, ma anche abbiamo una sezione su una delle star più importanti in Germania durante il periodo Weimar, Helen Richter. Lei era anche un produttrice di film di avventura. Abbiamo 8 lungometraggi che ho trovato da varie parti del mondo, da Mosca ad Amsterdam. C'è anche un grande rassegno sulle sceneggiatrici americane. Vogliamo sottolineare l'importanza delle donne nel cinema, non solo davanti alla macchina da presa, ma anche dietro. Quindi anche questo è una stazione da scoprire le gioielli del cinema muto, con registi tipo Cecil B. DeMille, John Ford, quindi grandi nomi, e anche grandi sceneggiatrici tipo Anita Loos, Clara Berenger. Questi sono i nomi molto importanti nella storia del cinema. Quali saranno i luoghi del festival? Siamo sempre nel Teatro Verdi a Pordenone, quindi un teatro che accoglie più di 900 posti, 900 persone, ma visto tutte le regole di anti-Covid abbiamo la possibilità di accogliere solo 340 persone. C'è anche una parte online. Esatto, l'anno scorso abbiamo fatto il festival solo online, ovviamente, perché non era possibile in un altro modo, e abbiamo raddoppiato i numeri di accreditati, perché il nostro pubblico è proprio un pubblico internazionale. Di solito abbiamo accreditati che vengono dagli Stati Uniti, Brasile, Giappone, Hong Kong, Australia. Ovviamente non era possibile l'anno scorso sicuramente, ma anche quest'anno è molto difficile, soprattutto per le gente che vogliono venire da oltre l'Atlantico o Pacifico. Quindi abbiamo fatto la scelta di fare un film ogni giorno online, come l'anno scorso, che è disponibile per 24 ore. Quindi c'è due modi di avere un accredito, uno in presenza e un altro online. Tutti i riferimenti web per le informazioni? È tutto disponibile su giornatedalcinemamuto.it. E lì si può trovare le schede per i film, anche il calendario, non solo per i film in presenza, ma anche online. E online abbiamo un bellissimo scelta di film, tra cui una sezione di cortometraggi recentemente restaurata dalla Cineteca del Friuli, e corti italiani, per esempio, molto divertente. Anche abbiamo un film di Cecil B. DeMille, Fool's Paradise. Abbiamo un Maciste all'Inferno, e questo è un tributo alla anniversario di Dante, per esempio, con il grande Maciste, e questo, per esempio, online si tirà il sabato 9, con una partitura scritta da Teo Teardo e Zero Orchestra di Pordenone. Saranno a flusso le proiezioni a partire dalle ore 9 o ci sono delle fasce orarie? Di solito cominciano sempre alle 9, ma quest'anno, visto che dobbiamo sanificare il teatro tra ogni proiezione, è possibile di avere solo 4 puntate ogni giorno. Quindi il nostro programma comincia alle 10 invece alle 9, e poi c'è una proiezione nella mattina, 2 nel pomeriggio e 1 alla sera. Vogliamo citare anche i musicisti? Sono delle formazioni stabili? Sì, assolutamente. Abbiamo, come sempre, musicisti che provengono dagli Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Olanda. Quest'anno purtroppo non era possibile, per esempio, per il nostro pianista Mauro Colombis, che vive in Australia. Lui, ovviamente, è impossibile per lui venire. Anche un pianista da Messico, José María Seraldo Ruiz, anche lui è bloccato a Messico. Però abbiamo altri grandi musicisti, più 3 eventi orchestrali. Quindi la prima serata, il film di Ernst Lubitsch, Lady Windermere's Fan, con una partitura scritta da Carl Davis per 3 musicisti. E poi mercoledì, Eroticon, un capolavoro di Gustav Mašati con Ita Rina, l'attrice slovena. E con questo c'è una partitura scritta da un compositore sloveno. E poi l'ultima sera, il grande spettacolo di Casanova, di Alexander Volkov, e con una nuova partitura orchestrale di Gunther Buchwald. Questo proprio sarà un evento indimenticabile, e questo è il sabato 9 al Teatro Verdi di Pordenone, e anche c'è un replica il 10 per le genti di Pordenone. 40esima edizione delle giornate del cinema muto al Teatro Verdi a Pordenone dal 2 al 9 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Jay Weisberg. A presto. Grazie mille. A prestissimo. Grazie Federico. Con Roberta Novielli, direttrice artistica dell'11ª edizione del Capo-Oscari Short Film Festival a Venezia dal 6 al 9 ottobre 2021. Ben trovata. Buongiorno a tutti. Descriviamo cos'è questo festival. È un festival molto particolare perché nell'anima della sua anche 11ª edizione come le precedenti ci sono soprattutto gli studenti, perché abbiamo 3 concorsi internazionali in cui presentiamo cortometraggi realizzati da studenti di cinema di tutto il mondo, ma soprattutto perché alla base dell'organizzazione dell'intera manifestazione ci sono studenti di Ca' Foscari, e quest'anno abbiamo un numero record perché sono 320 studenti che collaborano in tutte le fasi, quindi dall'organizzazione logistica alla scrittura dei cataloghi, la realizzazione dei video, sottotitoli, fare tutto infatti, quindi diventa un'esperienza sul campo fondamentale per tutti e poi contemporaneamente i nostri studenti e quelli che ci raggiungono dal mondo hanno la possibilità di incontrare ospiti prestigiosissimi e quindi in qualche modo rappresenta anche un passaggio di staffetta tra chi si affaccia alla professionalità e chi invece nel mondo del cinema ha già un nome affermato, quindi ogni anno ospiti importanti che tengono masterclass o che vengono per costituire la nostra giuria, è un momento veramente molto molto particolare. Quante sono le opere presentate? Circa una quarantina tra i tre concorsi e poi abbiamo tutti i programmi speciali ovviamente che sono moltissimi come ogni anno, anche lì nel segno del cortometraggio complessivamente credo che siamo intorno alle 150 corti in tutto sulle quattro giornate con un pre-festival, una pre-apertura il 5 di ottobre dedicato questa volta a grandi classici del cinema cinese per un link con la mostra del cinema cinese che in altri anni si è tenuta in altre città e che è un programma che suggello un sodalizio ecco tra di noi a partire da questa edizione. Abbiamo due lungometraggi, quindi per quello è stato collocato come pre-festival. Come sono strutturate le giornate? Un'altra particolarità che si è aggiunta dallo scorso anno è che abbiamo aggiunto la nostra sede classica, cioè l'Auditorium Santa Margherita, anche altre 10 sale, che chiamiamo le sale, in realtà non lo sono, distribuite per la città, cioè sono i principali musei e le principali fondazioni culturali di tutta la città, compreso Mestre con il Museo M9. Questo ci permette di portare da un lato naturalmente il nostro festival in tutta la città, è diventato un festival della città in un certo senso, ma anche di far sì che il cinema si sposi in modo assolutamente fluido con tutte le altre arti. Per esempio film che vengono proiettati tra le statue del museo archeologico hanno un effetto davvero affascinante e quindi è diventata una sorta di appunto flusso tra le arti di cui Venezia si fa principale interprete. Quali sono gli orari nei tanti luoghi? Naturalmente ogni sede ha delle esigenze legate anche per esempio agli orari canonici di apertura e chiusura, ma è possibile vedere film e spesso anche ascoltare gli ospiti presenti più o meno sempre nelle quattro giornate a partire da mercoledì alle 14 fino alla cerimonia di chiusura della 9 sera. C'è un'alternanza anche in senso di pertinenza diciamo con i programmi rispetto alla sede, per esempio la Fondazione Querini Stampalia che si occupa di arte contemporanea naturalmente preferisce programmi che si avvicinino molto al loro contesto, come il nostro speciale sulla videoarte italiana, o viceversa la Casa del Cinema del Comune di Venezia, che è un'altra delle nostre sedi, preferisce la fiction e naturalmente uno squadro particolare hanno scelto i programmi asiatici. Cioè a seconda della sede cambiano orari, collocazioni, programmi, cercando di rispettare appunto l'identità culturale di ciascuno dei partners delle sedi. Comunque è prevista anche la presenza di autori e autrici. Assolutamente sì, e i nomi quest'anno sono importantissimi, abbiamo uno speciale dedicato a uno dei più famosi registi giapponesi, Tsukamoto Shinya, poi c'è un programma a cui tengo personalmente tantissimo ed è dedicato alle due sorelle afghane Roya e Alka Sadat che insieme tra l'altro hanno anche fondato un festival dedicato al cinema femminile a Herat e Alka, la sorella minore documentarista, sarà con noi qui presente a Venezia. Poi abbiamo anche degli speciali con ospiti molto particolari, per esempio il nostro nuovo partner con la piattaforma WeShort, una piattaforma di streaming di cortometraggi neonata ma già grandissima, ci porta un programma speciale in cui avremo ospiti anche in collegamento Vittorio Sodano, quindi il grandissimo autore, e l'attrice Juni Ichikawa che ci raggiungerà anche lei qui, oppure abbiamo altri programmi, per esempio uno in particolare quello dedicato alla giuria ripercorre la carriera dei nostri tre giurati, quest'anno abbiamo il grandissimo scrittore e regista francese Philippe Claudel, poi abbiamo un animatore americano poco conosciuto ma in realtà autore di tantissime animazioni che conosciamo, Tony Grillo, perché ha lavorato anche per Tim Burton, addirittura per i Simpson e così via, e una giovanissima programmatrice di festival, Laura Aimone, che però di recente è passata anche alla regia, quindi come sempre cerchiamo di avere uno sguardo differente, complesso sull'analisi dei film, su chi deve giudicare i film e non prospettive univoche in qualche modo, quindi anche a loro dedichiamo un programma speciale per ripercorrere le loro carriere. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web? Noi abbiamo un portale sempre aggiornatissimo e bilingue che ha un link anche semplice da ricordare perché è kafoscarishort.unive.it, ma tutti i nostri social anche seguono le attività che noi di volta in volta presentiamo e volevo anche segnalare che sul sito sarà anche disponibile il nostro catalogo in PDF downloadabile bilingue a sua volta che è veramente molto nutrito e molto dettagliato su ciascuno dei programmi.